i quattro gradi della vita spirituale. Un giorno, mentre occupato in un lavoro manuale, cominciai a pensare all'attività spirituale dell'uomo. Tutto a un tratto si presentarono alla mia riflessione quattro gradi spirituali: la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Questa è la scala dei monaci, mediante la quale essi sono sollevati dalla terra al cielo, formate in realtà da pochi gradini, ma tuttavia di immensa e incredibile altezza, di cui la parte inferiore è appoggiata a terra, mentre la superiore penetra le nubi e scruta i segreti dei cieli. Questi gradini, come sono diversi di nome e di numero, così sono distinti per ordine e importanza. Se qualcuno esaminerà con cura le proprietà e le funzioni che ciascuno di essi esercita su di noi e come differiscano tra di loro e la loro gerarchia, stimerà breve e facile il lavoro e l'applicazione impiegati in questo studio, di fronte alla grande utilità e dolcezza che ne ritrarrà. La lettura, lezione divina, è lo studio assiduo delle scritture, fatto con spirito attento. La meditazione è una diligente attività della mente che cerca la conoscenza di verità nascoste mediante l'aiuto della propria ragione. La preghiera è un fervoroso anelito del cuore verso Dio per allontanare il male e ottenere il bene. La contemplazione è una certa elevazione della mente al di sopra di sé verso Dio, gustando le gioie dell'eterna dolcezza. Descritti dunque i quattro gradi, non ci resta che vedere la loro funzione a nostro riguardo.